che vi abbiamo dato, delle domande, che sono il tipo di domande che l'insegnante di Bante avrebbe chiesto a lui quando andava a prendere a colloquio, insomma. Most of them actually were written by Sayadaw Upandita. E molte di queste sono effettivamente state scritte da Sayadaw Upandita. It's not as though at every interview you were grilled on these questions. Non è che a ogni colloquio tu fossi messo sulla la griglia per queste domande. But it gave you some idea as to what the teacher was interested to know. Però gli davano un'idea riguardo cosa interessava all'insegnante sapere. And the one thing that's always missing from Vipassana are the stories. E quello che manca sempre nell'ambito della Vipassana sono le storie. It would seem that the Americans are especially good at going into their personal stories. Pare che gli americani siano particolarmente bravi nel entrare nelle loro storie personali. So he actually wrote most of these for the benefit of Americans. E quindi la maggior parte di queste domande Upandita le ha scritte proprio a beneficio degli americani. Because of the American fixation with therapy, psychotherapy. Proprio per questa fissazione degli americani per la psicoterapia. When you'll know, most of you will know the teacher Joseph Goldstein. La maggior parte di voi conosceranno l'insegnante di Dhamma, Joseph Goldstein. And so he was saying to me that in America, every Vipassana teacher has to also be in some way or other a therapist, a psychotherapist. Lui diceva che in America ogni insegnante di Dhamma doveva anche essere in un certo senso anche un analista, un psicanalista. But this is not necessary in Europe. Psicoterapeuta, scusa. Yeah, this is not necessary in Europe. Ah, in Europa però questo non è necessario. Yet. Ancora. Per adesso. So, I just want to go through them quickly, but really stopping at those places where we're dealing with the hindrances. Quindi vorrei scorrere velocemente queste domande, soffermandoci su quelle che in qualche modo sono legate agli ostacoli. So, I hope now, especially from tomorrow onwards, that the actual schedule becomes quite easy. Quindi io spero che adesso, soprattutto domani, l'orario sia per voi diventato abbastanza facile da seguire. Only in relation to the first day. Rispetto al primo giorno. Sì. Più facile rispetto al primo giorno. And I think what it teaches us how quickly we can actually recondition ourselves when we have the will to do it. E questo ci dimostra di quanto sia veloce per noi ricondizionarci quando ne abbiamo la volontà. But to recondition ourselves, we have to go through the pain of deconditioning what we are used to. Però per ricondizionarci dobbiamo attraversare il dolore del decondizionarci rispetto a ciò a cui siamo abituati. This is the problem. E questo è il problema. And if I always say, if after 5 days, you know, there is the schedule is just too demanding, then it's better to come for the 6:30 sitting. Dico sempre che se dopo 5 giorni l'orario rimane comunque troppo, cioè richiede troppo, è troppo difficile da seguire, allora io consiglio comunque di venire alla seduta delle 6:30. When one is doing a long retreat, say usually 4 weeks minimum, I would say. Se qualcuno fa un ritiro lungo, che per questo si intende un minimo di 4 settimane, then after about 1 week, when this schedule is settled, I always ask people to sleep only 3.5 hours. dopo che questo orario è ben stabilizzato, io chiedo alle persone di dormire solo 3 ore e mezza. If they feel still that this is too much after 5 days, they can go back to 5.5 hours. Se dopo 3-4 giorni, dopo 5 giorni di nuovo ritengono che sia troppo difficile, allora possono tornare a dormire 5 ore e mezza. And you can see how compassionate I am. And the purpose of cutting back sleep is because it's in sleep that we suppress things we don't want to see. Il motivo per cui riduciamo il sonno è perché è proprio durante il sonno che noi reprimiamo le cose che non vogliamo vedere. And this might be an opportunity to talk about that third hindrance, dullness and lethargy. E questo può essere un'occasione per parlare di quel terzo ostacolo che rientra nel quello che si chiama il torpore, la letargia. So remember, from even as children, we learn that one way to escape a problem is to go to sleep. Noi impariamo sin da bambini che un modo per sfuggire a un problema è di dormire. And as adults, often, just when we feel a little depressed or a little bored or there's nothing to do, we'll sit in a chair or lean on the sofa and disappear for a while. Anche da adulti, quando ci sentiamo un po' depressi o annoiati, quando non abbiamo niente da fare, ci sediamo su una poltrona o sul divano e semplicemente spariamo. Disappear for a little while. Per un po' di tempo noi spariamo. And what we are doing is through the energy of sleep. See, people don't think of it as an energy, but by making the mind close down, this is a force that pushes it out of consciousness. Ma è quello che facciamo è che con l'energia del sonno, anche se di solito non la consideriamo un'energia, invece noi quello che facciamo è praticamente costringerci a uscire dalla coscienza, dalla nostra coscienza, spingendola via, la mente fuori dalla coscienza attraverso il sonno. And often it will work. E spesso questo funziona. Of course, often it doesn't work and you wake up feeling even worse. Ovviamente a volte non funziona e uno si sveglia e si sente ancora peggio. But still one keeps doing it. Ma comunque si continua a farlo. And then, of course, sleep, especially subliminal sleep, is very pleasant. Ovviamente il sonno, soprattutto quello subliminale, è molto piacevole. Yes. On, on a day when you don't have to get up for work, Saturday, Sunday especially, one wakes in the morning and stays for an hour, maybe 2 hours, just underneath the level of wakefulness. Per esempio un giorno quando uno non deve andare a lavorare, il sabato o la domenica, uno rimane per 1 o 2 ore ancora nel letto, con la mente o la coscienza a questo livello che è appena al di sotto dello stato di veglia. Only to get up and have maybe a cup of tea and then find oneself snuggling back into bed. Uno si alza, magari solo una tazza di tè e poi di nuovo si intuffa di nuovo nel letto. It is only the imperatives of the bladder that finally get us up. Sono gli imperativi, gli ordini della vescica che sono quelli che poi alla fine ci fanno alzare da lei. So, when we come to meditate, we shouldn't be surprised that there is so much dullness and lethargy in the body. Quindi quando veniamo a meditare non ci deve sorprendere il fatto che c'è tutta questa sonnolenza, questo stato letargico nel corpo. And it would be a mistake to not consider them as important as depression, anxiety and all the rest. Sarebbe un errore considerarli meno importanti della depressione, l'ansia e tutto il resto. And what we find is that if we can begin to explore these feelings, explore the feeling of this thick cloud in the head and the heaviness of the body, we can actually wake up like a bright light in the midst of it. Se riusciamo a esplorare questo senso di, come di avere una nuvola nella testa, questa pesantezza nel corpo, allora riusciremo a accendere una luce luminosa all'interno di questo stato. We wake up like a light. È come se ci svegliassimo grazie a questa luce. And you see, what that shows us is that this satipanya, this knowing, the knowing, is still confused, you see, as to its relationship to these states. Quindi questo ci dimostra che satipanya, questa conoscenza, questo conoscere, è ancora in qualche modo confuso con questi stati. It still has a relationship of being attached to it. Quindi ha ancora questa relazione di attaccamento a questi stati. And it feels as though consciousness itself is the drowsiness. E quindi sembra che la coscienza stessa sia questo stato di torpore, questo affaticamento. But if you wake up that interest and begin to investigate these feelings, se si riesce però a svegliare l'interesse e investigare queste sensazioni, this knowing wakes up. Questa conoscenza sveglia. And what it's done is it's detached itself from these emotional states, they're still states of the heart, and refound its observation post. E quindi quello che ha fatto è che si è sganciata, si è staccata da questi stati emotivi e si è riposizionata e ha trovato la sua postazione, il suo punto di osservazione. And it's the same with the body, the heaviness of the body. E lo stesso vale per il corpo, questa pesantezza nel corpo. Now, in order to awaken like that, one little trick is to keep the attention moving all around inside the head, all around inside the body. Quindi un modo per tenere questa attenzione e questo interesse è fare girare l'attenzione all'interno della testa o all'interno del corpo. You know the two main disciples of the Buddha, Moggallana and Sariputta. Sapete che c'erano questi due discepoli principali del Buddha, Moggallana e Sariputta. Sariputta went to the Buddha with this very problem. Sariputta è andato al Buddha proprio con questo problema. And the Buddha gave him 11 ways to keep awake. E il Buddha gli diede 11 modi per stare sveglio. Even pulling his ears and rubbing his legs. Uno di questi modi era addirittura di tirarsi le orecchie o di sfregarsi le gambe. Only after 11 effortful attempts to remain awake could he say to himself, "No, I need to have some sleep." Solo dopo essersi sforzato in questi 11 modi, questi 11 tentativi per tenersi sveglio, quindi dopo 11 tentativi in cui non è riuscito, allora a quel punto si permetteva di andare a dormire. These are the acupuncture points, no? E questi sono i punti dell'agopuntura, questi dell'orecchio. I mean, if you pinch yourself hard enough, you should wake up. Si cotto abbastanza forte, beh, svegli. And Sariputta took 2 weeks to become fully enlightened. Sariputta ha impiegato 2 intere settimane per raggiungere l'illuminazione, fully enlightened, la piena illuminazione. But Moggallana, who had gone for this advice from the Buddha, took only 1 week. Invece Moggallana, che aveva seguito subito questi consigli del Buddha, ci ha messo solo una settimana. So there's hope for us, eh? Per noi c'è qualche speranza. So now by tomorrow, really, unless you've not slept very well, any feelings of dullness and lethargy during the day, you should recognize as dullness and lethargy. Quindi entro domani, a meno che non abbiate avuto delle difficoltà a dormire, se sorgono questi stati li dovreste riconoscere come stati di torpore, sonnolenza, letargia, diciamo. Yeah, I mean the basic techniques of course are just to open the eyes, let the light in. Sometimes you can look into the light. La tecnica di base sarebbe quella di aprire gli occhi e guardare la luce, anche direttamente nella luce. Mm. And while you're looking at the light, you see your attention is inward on these feelings. E mentre guardate la luce, la vostra attenzione è all'interno, verso, state guardando queste sensazioni. Mm. And then you can stand up, of course. E poi potete alzare, in piedi. There's a reluctance amongst meditators, you know, to stand up. C'è una sorta di riluttanza, una resistenza nei meditanti ad alzarsi in piedi. There's a sort of feeling of failure and shame. C'è questa sensazione di un fallimento, di vergogna. Yes. When they stand up, they think everybody's thinking, oh, there's one. Quando si alzano in piedi, hanno il sospetto che tutti comincino a pensare, ah, ecco, c'è uno che sta addormentando. We should discard such thoughts. Ma noi dovremmo proprio eliminare questi pensieri. Yeah. And sometimes this dullness and lethargy can be extraordinarily heavy. A volte questo torpore può essere estremamente forte. Mm. And sometimes the only thing to do is to do walking meditation. Just keep walking with it. A volte l'unica cosa da fare è fare la meditazione camminata, continuare a camminare con questo stato. Yeah, yeah. I myself have done marathons. Io stesso ho fatto delle maratone. Yeah, a very heavy conditioning. Un condizionamento molto pesante. Mm. So we shall let go of that's the third hindrance, you see. Quindi questo è il terzo ostacolo. When it comes to sleeping and eating, well, that's, you know, what we come to understand about sleeping and eating is that when we have this special condition, you can eat less and you can sleep less. Quello che veniamo a comprendere rispetto al dormire e al mangiare è che quando siamo in questo particolare contesto, con queste condizioni, è possibile mangiare di meno e dormire di meno. Mm. I mean, in ordinary daily life, I would have thought you do need 7 hours. Io direi che nella vita quotidiana probabilmente avete bisogno di 7 ore di sonno. But you know, Mrs. Thatcher, she only slept 4 hours a night. Ma Miss Thatcher dormiva solo 4 ore per notte. Not bad. Non male. She's in hospital now. Adesso è all'ospedale. So yes, you often find that parts of the day are more difficult than others. A volte si nota che alcune parti della giornata sono più difficili di altre. And this is just a natural physical thing within our bodies and minds. Questa è una cosa naturale, fisica, che c'è all'interno dei nostri corpi, delle nostre menti. As you know, some people find it easy to get up, but difficult to stay awake at night. Some people are the opposite. Difficult to get up, easy to stay at night. It's to do with your constitution. Sono le persone che trovano più facile alzarsi presto al mattino, difficile stare svegli la sera, o viceversa. Questo dipende molto dalla costituzione. So, you know, we get to know ourselves. Quindi in questo modo noi veniamo a conoscerci meglio. And if we just put a little bit more energy in those times of the day when we feel low, then it affects the whole day, you see. Se riusciamo a mettere un pochino più energia in quei momenti quando l'energia è più bassa, beh, questo influenzerà l'intera giornata. Mm. One of my teachers, although I never met her, it was her teachers whom I knew. At Throstle Hall Abbey, the Zen monastery. Una delle mie insegnanti che non ho conosciuto personalmente, perché ho conosciuto le sue insegnanti, in un monastero. In North England. In Inghilterra. Her phrase was push gently. Quindi la sua frase era di spingere delicatamente. Ah, push gently. So now the breath. So as long as we are clear, you see, that the that watching the breath is an initial, a beginning process, and we know what we want to establish. That's what's important. Allora, per quanto riguarda il respiro, è importante capire che questo è un processo iniziale e capire cos'è che noi vogliamo stabilizzare. Mm. We just want to bring some level of attention. Quindi noi vogliamo sviluppare un certo livello di attenzione. Mm. In this, in these guida, these linea guida, this little phrase, quando la mente è abbastanza stabile, this abbastanza stabile was the little phrase that Sayadaw Janaka used to constantly say. Quello che abbiamo letto, che leggiamo nelle linee guida, e quindi ci riferiamo alla mente abbastanza stabile, è quello che Ujjanika continuava a ripetere. Mm, somewhat steady in English. In inglese è in qualche modo stabile. Somewhat steady. Un po' stabile, diciamo. So we're not looking for a fierce and you know, tremendous concentration. Quindi non è che stiamo cercando una forte concentrazione. We just want to be able to watch whatever arises and passes away. Vogliamo solo essere in grado di osservare tutto ciò che sorge e passa. Mm. Now, some people are confused because in the teaching it says to see the beginning, the middle and the end of the breath. Alcune persone sono confuse perché negli insegnamenti si dice di vedere l'inizio, la parte in mezzo e la fine di ogni respiro. Mm. So the meditator is catching the beginning and then he's watching the breath to see where the middle is. Oh, that's the middle and then that's the end. Guarda l'inizio, coglie l'inizio e poi respira lassù e dice, ah sì, ecco, qui sono nel mezzo e poi arriva alla fine. But the middle in the commentary is just the part between the beginning and the end. Però nel commentario si spiega che questa parte mediana è semplicemente quella che va dall'inizio alla fine, cioè quella che sta tra l'inizio e la fine. Ah, so you be careful of the English here. Quindi qui fate attenzione a interpretare bene, insomma. Yes, and you know, to know that there's always a danger point at the end of the out breath. Ricordate che c'è sempre un punto di pericolo, diciamo, alla fine della espirazione. Mm, because then the sensations become so fine and the mind just flips. Quindi le sensazioni sono molto sottili e la mente semplicemente, come dire, se ne va. Se ne va. You know, we only have to think of the speed with which the mind works. Dobbiamo considerare la velocità con la quale lavora la mente. Mm, so it only takes just one nanosecond of mindlessness and it's away. Quindi basta un nanosecondo di mancanza di attenzione, di consapevolezza, e la mente è già partita. Mm. So often it's a good practice to have some other sensation. Quindi è una buona pratica avere un'altra sensazione. Or another thing is to rising and falling, you see, or if you're watching here, rising, falling, and then just open up to catch the whole sense body. Quindi un altro modo è osservare, alzarsi e abbassarsi dell'addome, però poi alla fine della respirazione avere il senso dell'intero corpo. And then within that entire sensation, the breath begins again and you bring your attention to the beginning. E poi all'interno di questa sensazione più aperta, più generale, riparte il respiro, allora si riporta l'attenzione sull'inizio. But eventually where we want to get, at least for some moments, is to be able to stay exactly where the breath is without moving. Ovviamente quello che vogliamo ottenere, almeno per alcuni momenti, è di restare con l'intero respiro senza muoverci, senza spostare l'attenzione. Now all these directions really are cancelled if when you go into your body there is a very obvious sensation which draws your attention. Ovviamente tutte queste istruzioni sono cancellate se all'interno del vostro corpo sorge una sensazione predominante. dominante, più forte. Yeah, because then we are observing the fourth Satipatthana. Perché a quel punto andiamo ad osservare il quarto Satipatthana. Which is either one of the hindrances. Che è o uno degli ostacoli. Or one of the factors of enlightenment. O uno dei fattori di illuminazione. Yeah, it's got to be something in the body, you see. Or the body itself. Oppure, feelings in the body. Oppure le sensazioni nel corpo stesso. I'm hoping that the noting for those of you who are new to this technique is becoming slightly more natural. Io spero che questa tecnica del notare, soprattutto per quelli che sono nuovi a questa pratica, stia cominciando a diventare un pochino più naturale. Mm. Just like anything else with the mind, it just becomes a habit. Così come per qualsiasi altra cosa della mente, diventa un'abitudine. Mm. Now, usually after four days, most of the noting is habitual. Di solito dopo 2-3-4 giorni, questa abitudine di mettere un'etichetta mentale diventa abituale. Mm. But the danger there, of course, then, in it becoming habitual, it then, of course, takes on a life of its own. E lì il pericolo, quando diventa abituale, è che possa, come dire, assumere una sua vita, una propria esistenza, diciamo. And it's a regular experience to come back from dreaming of your holiday and hearing the mind go rising, falling. Quindi è un'esperienza abbastanza comune, quello di ritornare dopo aver fantasticato sulla propria vacanza. Planning the holiday. Sì, questo, programmare una tua vacanza e nel frattempo stavi continuando a fare alzarsi, abbassarsi. So when this happens, you see, the alarm bell should go. Quando questo succede, la dovrebbe scattare la sveglia. Ah, you have to wake up. now, in the walking meditation, remember. We have to be skillful with using that. Per quanto riguarda la camminata, dobbiamo essere abili nell'usarla. So remember, if there is a strong emotion, you can walk with it. Quindi ricordate, se c'è una forte emozione, si può camminare con essa. We've just talked about the dullness and lethargy, you see. So take the big fat dog for a walk, up and down. Abbiamo parlato di questo torpore, sonnolenza, potete portare questo grande cane grasso a passeggio. Eating, mangiare, even in that simple investigation, the whole of the Buddha's teaching can be discovered. Quindi per quanto riguarda il mangiare, anche in quella semplice investigazione si possono scoprire tutti gli insegnamenti del Buddha. Mm. And even though after a while we think that we've seen deeply, anche se dopo un po' ci sembra di aver visto in profondità. That would be a mistake to stop it. Sarebbe un errore però fermarsi lì. Because actually that very simple exercise can take us right to the end of the path. Perché effettivamente quel semplice esercizio può portarci fino alla fine del sentiero. Mm. And you know, as I keep sort of stressing these days, this is to my mind anyway, our great social problem. E come ho detto negli ultimi giorni, almeno per quanto mi riguarda, questo è il problema più grande sul piano sociale. I don't mean eating itself, I mean the whole problem of indulgence. Non intendo il mangiare stesso, ma tutto questo problema intorno all'indulgere. And you know, to really, you can do this in the walking meditation, you can do this when opening a door, to really make a distinction between the intention and the act of will. Quindi questo si può fare sia durante la camminata o anche solo aprendo una porta, riuscire a distinguere tra l'intenzione e un atto di volontà. Yeah. Remember that so long as something remains at the level of a desire, it's not been activated. Ricordate che finché qualcosa rimane a livello del desiderio, è come se non venisse ancora attivato. Mm. This is what is technically known as vipaka. This is the consequence of an act. Quindi questo è in termini tecnici si chiama vipaka. Vipaka, cioè sono le conseguenze di un'azione. Yeah. But as soon as we empower it, then it becomes an act. Ma appena noi lo potenziamo, allora diventa un'azione. Mm. But we can go into this more deeply when we talk about karma, because this is a real central teaching of the Buddha. Ma ne parleremo più in dettaglio quando affronteremo il discorso sul karma, che è una parte centrale degli insegnamenti del Buddha. And at this time really to encourage you to go slower. E a questo punto io vi incoraggerei proprio ad andare più lentamente. Remember, the slower you go, the more you see. Guardate che più andate lentamente e più riuscirete a vedere. I'm sure you've all seen these nature films where you've seen, for instance, a leopard in chase and how beautiful it is when the film is slowed down. Sicuramente avete visto questi documentari sulla natura e per esempio come una lepre che corre e quanto si veda di più quando viene rallentato il movimento. It's like a ballet, eh? Allora sembra quasi un balletto. Mm. I also had a very great insight into frogs. Io ho avuto anche un grande insight nelle rane, a proposito delle rane. Yes. The slowed down film by something like 1,000 times. Quindi il filmato rallentato di 1,000 volte. And it showed the tongue coming out, oh, so far, to catch a fly. Quindi ha mostrato questa lingua che usciva molto in fuori, molto lunga, per catturare una mosca. Did you know that the frog catches a fly underneath the tongue and not on top? Lo sapevate che una rana cattura una mosca sotto la lingua, non sopra. This was a big insight. Questo è stato un grande insight. Because we always put things on our mouths. Perché noi mettiamo sempre cose sopra la lingua. It's very important. So the slower you go, the more you see. E quindi più andate lentamente, più vedrete. But there's also an added advantage, because when you slow the body down, you slow the mind down. Ma c'è un vantaggio aggiuntivo, e cioè che quando rallentate il corpo, rallentate anche la mente. So, one exercise that we can take into daily life, at least on occasion, is opening and closing doors. Un esercizio che possiamo portare nella nostra vita quotidiana, occasionalmente, è quello di aprire e chiudere le porte. Mm. It depends on whether there's a queue behind you or not, eh? Dipende ovviamente se c'è una coda dietro di voi. But first of all, you stand in front of the door, you see. Innanzitutto state in piedi davanti alla porta. Mm. Intending to open the door. Intenzione di aprire la porta. See? And then as your hand moves, you see, moving, moving, moving, moving, even slower. Poi muovete la mano molto lentamente e notate muovere. As you get hold of the handle, you feel it. How do you know it's metal or wood? Poi quando prendete la maniglia, cercate veramente di sentirla e capire che sensazione dà il contatto con il metallo o con il legno. And then as you press the handle to be in communion with the spring. E poi mentre girate questa maniglia, entrare in comunione con la molla. Neither too much energy nor too little. Né troppa energia né troppa poca. So this relates to the Buddha's description of right effort. Quindi questo si relaziona con la descrizione del Buddha del giusto sforzo. And then pushing. E poi spingere. And then to feel the spring against your hand as you lift it up. You see. E poi di nuovo sentire la molla contro la mano man mano che tirate su. And then you walk through the door. E poi camminate attraverso la porta. Well, this can take 5 minutes. Potrebbe richiedere anche 5 minuti. So try to choose little things during the day where you really come down to the minutest movement. Cercate di scegliere dei momenti nella giornata dove arrivate proprio a cogliere i movimenti più minuti. And you know, to encourage yourself to become truly interested in your own psychology. E cercate di incoraggiare voi stessi a diventare veramente interessati alla vostra stessa psicologia. Nobody else is going to take an interest in your psychology. Non ci sarà nessun altro che sarà interessato alla vostra psicologia. If you don't, who will? Se non lo fate voi, chi lo farà? So, now, these sensations, physical and mental. Qui ci sono le sensazioni fisiche e mentali. Now, the Buddha's word is vedana. Quindi la parola utilizzata dal Buddha è vedana. And it means all the feelings and sensations that we experience which come from the body or from the heart. Quindi sono tutte le sensazioni che noi sperimentiamo che derivano o dal corpo o dal cuore. We would normally see them as quite distinct, emotions and sensations. Di solito noi le vedremmo in maniera abbastanza distinta, quindi le emozioni e le sensazioni. So, take for instance pain in the knee. Per esempio, un dolore al ginocchio. So, first of all, the pain comes and it wakens my attention, doesn't it? It draws my attention. Arriva il dolore e sveglia la mia attenzione, come se attirasse la mia attenzione. So, I avert my attention to the pain. Quindi io volgo la mia attenzione al dolore. As the pain begins to grow, I can feel the resistance. Man mano che cresce il dolore, io sento la resistenza. And if it grows too much, I can sense the fear. Se cresce troppo, io posso sentire la paura. So I'm staying there, you see. I'm seeing both the pain and the reaction. Allora io sto lì e vedo sia il dolore che la reazione. This is the body, this is the mind. Questo è il corpo e questa è la mente. Now, of course, if the pain gets ridiculous, I have to move. Ridiculous. Too much. Se il dolore è troppo, ovviamente devo muovermi. But I'll come to that in a minute. Ci arriverò tra un attimo. Let's say it is bearable. Allora, supponiamo che sia sopportabile. If I stay there long enough, I find that the reaction, the mental reaction, begins to fade away. Se io riesco a starci abbastanza lungo, vedrò che la reazione mentale comincia a dissolversi. I'm changing my relationship to pain. Io sto cambiando la mia relazione al dolore. Whereas before I wasn't patient, now I find myself being patient. Mentre prima ero impaziente, adesso mi ritrovo ad essere paziente. Patience is the willingness to bear. La pazienza è questa disponibilità a sopportare. So now all the reaction has gone and the pain is very clear. Adesso tutta la reazione se n'è andata, ma il dolore è molto chiaro. And my noting word is pain. La mia parola, la mia etichetta mentale è dolore. So now I go into the pain. Adesso vado dentro il dolore. This is the Buddha's instruction, to feel feelings in feelings. Ed queste sono proprio le istruzioni del Buddha, vedere le sensazioni nelle sensazioni. To experience mental states in mental states. sperimentare gli stati mentali negli stati mentali. The grammatical construction that he uses is technically known as locative. Quindi la struttura grammaticale che utilizza è un locativo. I say this only for you linguists. Lo dico per voi linguisti. It's in, like you say, I'm coming into the room. E quindi è proprio una preposizione in, cioè in, dentro, come entrare nella stanza. Ah, so now I go into the pain. E adesso entro dentro il dolore. And I begin to discriminate between the different feelings in the pain. Comincio a discriminare, a distinguere tra le diverse sensazioni all'interno del dolore. Do you remember when we did the standing meditation and I asked you to distinguish between two types of sensations? Ricordate quando abbiamo fatto la meditazione in piedi, vi ho chiesto di distinguere tra due diversi tipi di sensazioni. One was to do with pressure and the other one was to do with coolness or heat on the floor. Sì, uno era la pressione, l'altro era la temperatura, il calore del pavimento. Sì? So as we go into the pain, we can distinguish perhaps different types of sensations. Quando entriamo nel dolore, possiamo distinguere diversi tipi di sensazioni. There may be pressure and there may be heat. Potrebbe esserci pressione e calore. Now, my noting changes. Adesso il mio notare cambia. Ah, now I'm saying heat or pressure. Adesso sto dicendo calore o pressione. Ah. Then, when I, as it were, come out to the level of, to another level, suddenly I say pain. Quando esco da questo e passo ad un altro livello, improvvisamente dico dolore. So now I realize pain is a mental construct. It doesn't actually exist. Mi accorgo che il dolore è una costruzione mentale, non esiste veramente. What actually exists are these sensations. Quello che veramente esiste sono queste sensazioni. It's the mind which has conceived it as pain, perceived it as pain. È la mente che l'ha percepita come dolore, l'ha concepita come dolore. And in the perception it apperceives it. E in questa percezione la I think it's the same word in Italian. Aperture, yeah. It means to give it a word, to note it. E gli dà una parola, la nomina. A label. Gli mette un'etichetta. Ah, you see? And then from then on, whenever some sensation comes which is unpleasant, pain. E da allora in poi ogni volta che sorge una sensazione di questo tipo si dice dolore. Ah. And as soon as I say pain, I want to get rid of it, aspirin or run for it. Run away, do something. E appena sorge voglio fare qualcosa, cioè o prendo un'aspirina o scappo dal mondo. So this you know real investigation is to make a distinction between pain and suffering. Quindi questa investigazione significa proprio fare una distinzione tra il dolore e la sofferenza. And in this way, you see, we discover a new relationship with what is unpleasant. E in questo modo noi scopriamo un nuovo tipo di relazione con ciò che non è piacevole. Now all this is within reason. Tutto questo è entro i limiti della ragione. If the pain comes to a point where you are sure the knee is going to explode. Il dolore arriva a un punto in cui siete sicuri che il ginocchio esploderà. Allora, so then you say, you know, enough. You say intending to move. A quel punto dite, vabbè, basta a questo punto, intenzione di spostarmi. Now, you make intention to move and you do it very, very slowly, right? You begin to move your posture. Allora, lo fate molto lentamente, cominciate a spostare, a muovere la postura. And what you are interested in is how, as the body becomes more comfortable, the mind becomes more peaceful. Quindi quello che potete notare è com'è che mentre il corpo diventa più comodo, si mette più comodo, la mente diventa più pacificata. So again, we are watching that there are two different systems, the body and the mind, and the one is dependent on the other. Quindi di nuovo vediamo che ci sono due diversi sistemi, il corpo e la mente, e uno dipende dall'altro. And this same technique can be used for emotional states. E questa stessa tecnica si può usare per gli stati emotivi. In the West now, we are in the habit of psychologizing our emotional states. Qui in Occidente abbiamo questa abitudine di psicologizzare i nostri stati emotivi. Feelings of depression immediately take me into a psychotherapeutic mode. Quindi queste sensazioni di depressione immediatamente mi portano in una modalità psicoterapeutica. In the East they don't do that. They somatize their emotional problems. In Oriente non lo fanno, somatizzano i loro problemi emotivi. So they don't say they're depressed, they say they're heavy. Quindi non dicono che sono depressi, dicono che sono pesanti. In fact, my teacher in Birmingham was very confused by this. Infatti il mio insegnante a Birmingham era molto confuso a questo riguardo. There was a Burmese woman living there who, by anybody who knew her, knew that she was deeply depressed. C'era una donna birmana che stava lì e chiunque la avesse vista, chiunque la conosceva, avrebbe detto per certo che era depressa. But she would not have spoken of it in that way. Ma lei non l'avrebbe detto in quel modo. But all these Westerners who came to see Bhante used to say how depressed they were. Ma tutti questi occidentali che andavano a visitare Bhante gli dicevano quanto erano depressi. And would explain it psychologically. E glielo spiegherebbero in termini psicologici. So one day he confided in me. Quindi un giorno mi ha fatto una confidenza. He said, you know, the Burmese never get depressed. E gli ha detto, i birmani non si deprimono mai. Great confusion. Gli aveva creato confusione. Now there is some wisdom in seeing our emotions as physical states. Quindi c'è una saggezza nel vedere le nostre emozioni come stati fisici. Because these feelings that we have in us are consequences of what has happened in the past. Perché queste sensazioni che abbiamo sono delle conseguenze di cose accadute in passato. And we begin to realize through our meditation that when these emotions move up into the intellect and create stories, they're developing themselves. E cominciamo a vedere che queste emozioni, quando vanno a livello appunto dell'intelletto, cominciamo a creare delle storie, allora è come se si sviluppassero. And of course if we don't acknowledge them, then of course that's another way of suppressing them. Però se non li riconosciamo, questo è un altro modo per reprimerle. And so we know that from our own understanding of the mind. E questo lo sappiamo perché come noi conosciamo la mente. But if we look upon them as physical states, you see, feelings, as feelings. Quindi se li vediamo come sensazioni fisiche, come stati fisici. And we allow them just the time and the space to just express themselves as feelings. E gli lasciamo il tempo e lo spazio per esprimersi come sensazioni. Then of course they are exhausting their energy. È come se come se esaurissero la loro energia. You see, and it also means that we can, in the day, during the day, we can have the habit of parking them. Like a car, you park it. E quindi possiamo sviluppare questa abitudine durante la giornata di posteggiarle, come uno posteggiasse una macchina. So, parking an emotion, to me, is not that you're pushing it away with aversion or fear. Quindi posteggiare un'emozione per me non è come sbarazzarsene con avversione o paura, attraverso l'avversione o la paura. You're simply turning your attention away from it to what you want to attend to. Semplicemente uno sta distogliendo l'attenzione da quell'emozione per porla su una cosa che verso la quale uno in quel momento ha più interesse. Mm. And in this way, these emotions, these emotional states, don't hijack our lives. In questo modo questi stati emotivi non prendono sopravvento sulla nostra vita, cioè non ci hijack like a plane. Sì, come sequestrano, sì, su un aereo si fa un ostaggio, un dirottamento, ok, non ci dirottano la vita. I mean, most times that, unless the emotion is very, very strong, most times that's a very skillful way to deal with it until you find the time to open up to it, you see. E quindi a meno che l'emozione non sia molto forte, questo è un buon modo per affrontarla fino a quando non si ha sufficiente tempo per aprirsi ad essa. So that's why these two points of the meditation in the day are so important, you see. Per questo i due momenti della giornata sono così importanti. The morning meditation is to set us in the right mode. Quindi la meditazione del mattino è per disporci nella giusta modalità. And the meditation when you come back from work or sometime in the evening is to open up to any accumulation that we've gathered during the day. Invece la meditazione della sera ci permette di aprirci a qualunque cosa che sia stata accumulata e messa da parte durante la giornata. So I think we've said enough about thinking, pensare. Abbiamo già detto abbastanza riguardo al pensare. So during the interview tomorrow, you know, any questions around this, that's the time to. Quindi domani cominceremo con i colloqui, quindi qualunque domanda intorno a questo argomento potete porre. The you know, daily activities, it's so important to impress upon ourselves that what we're practicing is moment to moment mindfulness. We can't stop. Riguardo alle attività quotidiane è importante imprimere, diciamo, dentro di noi il fatto che quello che cerchiamo di sviluppare è questa consapevolezza attimo dopo attimo, continua. And to remember the trick is to relax, so you don't force it. E ricordate che il trucco è di rilassarsi, di non forzarsi. Every time you see the mind wandering, you say, stop. So you relax. Ogni volta che vedete la mente che divaga, vi fermate e vi rilassate. All this we can take into daily life. This isn't just something you do here. E questo lo possiamo portare nella vita quotidiana, non è solo una cosa che fate qui. And I think we've talked enough about, you know, abiding in the present moment and about the work period. Credo che abbiamo già detto abbastanza riguardo a questo dimorare nel momento presente e il periodo di lavoro. Just one or two little things. Uno, due piccole cose. When your mind is caught up something which is negative or positive, you know, when it's either. When the mind is driven either by desire or by aversion. Quando scoprite che la vostra mente è in qualche modo spinta, ecco, o da desiderio o da avversione. And you note it and then come back into the body. La notate, tornate nel corpo. And you go back to and you perhaps can feel the energy which is making the mind wander. E sentite questa energia che fa sì che la mente divaghi. So really attend to that. Quindi veramente occupatevi di questo. And remember, you can flavor your looking with kindness. E potete insaporire il vostro sguardo con. Yes, you're looking your vipassana with kindness. Con gentilezza. You can attend to these things as a nurse would attend to a patient. Potete occuparvi di queste cose così come farebbe una infermiera con il proprio paziente. And when you're there, you see, See if you can feel this energy wanting to move. E quando siete lì, vedete se riuscite a sentire questa energia che vuole muoversi, vuole spostarsi. You can feel, see? Because that's the leakage of desire. E questo è, come dire, la perdita del desiderio. Il desiderio che sfugge, no? Che esce. No, è il desiderio che esce fuori, come fosse una perdita. You see the energy, yeah? And if you can just stay there and wait for it to die away, the mind stops. Se riuscite a stare lì e aspettare che questa energia si muoia, si dissolva, la mente si ferma. And again, these are little insights into the connection between the heart and the mind. Vedete, questi sono sempre degli insights sul collegamento tra il cuore e la mente. The only other, one or two other things, doubt. Remember that the Buddha wants us to have an attitude of wonder. Un altro punto da fare è quello riguardo al dubbio. Ricordate che il Buddha vuole che noi abbiamo un atteggiamento di meraviglia, cioè di più chiedersi cos'è, cosa succede. A philosopher's wonder. Quindi questo domandarsi del filosofo. Of a scientist. O di uno scienziato. You see? And therefore one has to have an honest doubt about the Buddha's teaching. Quindi è necessario che uno abbia un dubbio onesto riguardo agli insegnamenti del Buddha. See? We ourselves have to investigate. Perché siamo noi stessi che dobbiamo investigare. And this very investigation is the process of liberation. Ed è proprio questa investigazione il processo verso la liberazione. Now that's not to be confused with skeptical doubt. E questo non va confuso con il dubbio scettico. Because that often comes from fear of commitment. Perché quello deriva spesso dalla paura dell'impegno. Or fear of failure. O la paura del fallimento. Yeah, or some other fear. Any fear. You just don't. Qualunque paura. So what skeptical doubt does is it stops you committing to an act. Quindi quello che fa il dubbio scettico è quello che vi impedisce di impegnarvi verso un atto, un'azione. Yes, and it's it is pernicious even in daily life. Ed è pernicious, evil. È una cosa negativa, diciamo, anche nella vita quotidiana. Non c'è perniciosa. Si dice pernicioso. Pernicious. Because, for instance, you know, a job has come and you apply for it and you can, you know, you doubt you can do it and maybe you can't, you doubt you can do it, maybe you can't. Before you make a decision, the job's gone. Per esempio, vi viene offerto un lavoro, vi viene un dubbio, posso farlo, non posso farlo, state lì a tentennare, nel frattempo il lavoro è già stato perso. Even with relationships, eh? This is the person you've always looked for? No, it's not. Yes, it is. No, it's not. No. Anche nelle relazioni, no? Questa è la persona che ho sempre cercato. Forse lo è, forse non lo è, forse sì, forse no. E poi, è andata via. Non c'è più. So in the spiritual life it's the same, you see. E vale la stessa cosa per la vita spirituale. So whenever you find a doubt stopping you doing something, do it. To hell with it. Quindi ogni volta che trovate che ci sia un dubbio che vi impedisce di fare qualcosa, beh, fatelo lo stesso, chi se ne frega. Within reason. Entro i limiti della ragione. Ragionevolmente. Yeah. And the last one, since it came up strongly this morning, is the problem of boredom. E l'ultimo punto, siccome è venuto fuori molto stamattina, è quello della noia. Now remember, the big mistake is we always blame the object. Ricordate che il grande errore è sempre quello di dare la colpa all'oggetto. It's the breath which bores me. È il respiro che mi annoia. It's the television that bores me. È la televisione che mi annoia. It's my friend who bores me. It's my wife, my husband, everybody. Mio amico, mia moglie, mio marito, che sono noiosi. So now we cut through that delusion and we recognize that I am the one who is boring myself. Quindi adesso tagliamo attraverso questa illusione e ci rendiamo conto che sono io che sto annoiando me stesso. I am the one who's creating the boredom. Sono io che creo la mia noia. So remember, this is also a very important mental state to investigate. Ricordate che questo è anche un importante stato mentale da investigare. In the same way as any other emotional state. Così come un qualsiasi altro stato emotivo. Yeah. So we've covered virtually these five hindrances, as they know. Quindi abbiamo coperto questi cinque ostacoli che sono conosciuti. Those to do with desire and those to do with aversion. Quelli che hanno a vedere con il desiderio, con l'avversione. Which also includes fear. E questo comprende anche la paura. All to do with dullness and lethargy. Tutti quelli che hanno a che vedere con il torpore, la letargia. We haven't talked so much about restlessness, but we've mentioned it here and there about how to walk with it, feel it. Non abbiamo parlato molto dell'irrequietezza, però è venuto fuori in varie occasioni, quindi come camminare con la irrequietezza, come sentirla. And also, normally in this fourth hindrance is included all these secondary mental states that arise from unwholesome actions. E in questa quarta categoria includiamo anche tutti quegli stati mentali negativi che sorgono dalle azioni non salutari. They're secondary. E sono secondari questi. That is guilt, shame and remorse. Sono il senso di colpa, la vergogna e il rimorso. And these are to be investigated, felt, you see, just allow them to express themselves. Anche questi vanno investigati, sentiti e bisogna permettere loro di esprimersi. And the last one is this skeptical gap. E l'ultimo è questo dubbio scettico. I can only hope my words have been of some assistance. Posso solo sperare che le mie parole siano state di un qualche aiuto. May you, by your wise dealings with these five hindrances, che voi possiate, attraverso il vostro affrontare saggio di questi cinque impedimenti, may overcome all hindrances. Possiate superare tutti gli ostacoli. Purify the mind. Purificare la mente. And achieve the liberation. E raggiungere la liberazione. Sooner rather than later. Prima piuttosto che poi. Grazie.